America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Breaking news from Paris. At least 12 people are confirmed dead after masked gunmen stormed a French newspaper office. L'America è sotto shock. Avete sentito uno degli annunci di ieri dopo l'attacco a Parigi? È sotto shock, dicevo, come tutti noi, come tutta l'Europa, come tutto il resto del mondo civile per l'attacco a Parigi contro il magazine satirico Charlie Hebdo. I 12 morti, le immagini del poliziotto freddato per strada hanno tenuto col fiato sospeso l'opinione pubblica. Per gli americani si sa che una cosa di questo genere potrebbe accadere in una loro città, in un loro aeroporto, in una metropolitana, in una scuola, oltre che nei giornali, nelle istituzioni. Per tutti ha parlato il presidente Barack Obama. The fact that this was an attack on journalists. Obama ha parlato ieri poco prima di partire per un tour economico, doveva essere un tour leggero per promuovere le sue iniziative. Obama non è contento di una crescita del 5%, vorrebbe qualche cosa di più, e dunque ieri prima tappa in Michigan, oggi in Arizona, domani in Tennessee. E però questo suo viaggio è stato turbato appunto da questo attacco. Nelle dichiarazioni che vi ho fatto ascoltare il presidente parla di una profonda vicinanza alla Francia, di un attacco codardo e diabolico, e dice il fatto che sia stato portato avanti un attacco contro dei giornalisti, contro la libertà di stampa e di espressione, dimostra come questi terroristi ne abbiano timore. Il presidente poi ha promesso ogni assistenza necessaria per combattere il terrorismo non solo in America ma anche in Europa. Il tema, devo dire, non è nuovo per il presidente e per l'America. Pensate, lo ricorderete, non più tardi di 2 settimane fa gli Stati Uniti sono stati coinvolti in questo dibattito, che poi è stato un dibattito mondiale, cioè se proiettare o meno il film The Interview, un film satirico, come satirico è il magazine francese, un film che prendeva in giro il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Ci furono, come ricordate, intrusioni via internet, hackerate, diffusioni di mail riservate degli executive della Sony. Soprattutto ci fu la minaccia di attentati nei cinema americani se il film fosse stato proiettato. E insomma, una minaccia non leggera. La Sony prima ha ceduto a queste minacce, poi ha fatto marcia indietro, ha rimesso il film in circolazione, ma non prima, devo dire, di essere stata ripresa duramente dallo stesso presidente Barack Obama. Sentiamo di nuovo Obama in quell'occasione. Sony is a corporation. You know, suffered significant damage. There were threats against its employees. I am sympathetic to the concerns that they faced. Having said all that, yes, I think they made a mistake. Ecco, avete sentito, il presidente criticò la Sony per aver ritirato il film dalle sale e disse: non si cede al ricatto, non si deve cedere alle minacce che vogliono reprimere le nostre libertà fondamentali, libertà di espressione, le libertà artistiche. Per questo il presidente e l'America, credo, oggi si sentono così vicini alla Francia, perché se forse era magari più facile chiamare il bluff del dittatore nordcoreano, ma chissà, forse sarebbe stato più difficile chiamarlo contro le ferrate milizie terroristiche che sono mimetizzate nel tessuto del paese, che a Parigi parlavano francese perfetto, che sono in grado di entrare e uscire dal loro paese di origine con passaporti normalissimi, insospettabili. Del resto l'America conosce bene questo fenomeno perché lo ha vissuto lei stessa direttamente. Ecco una vecchia registrazione che ho ripreso dai nostri archivi delle urla a Boston, quando il 15 aprile del 2013 alla maratona, la tragica maratona di Boston, ci fu poco prima dell'arrivo un'esplosione, panico per strada, fughe, erano esplosi due ordigni a distanza di 12 secondi, a 170 metri l'uno dall'altro, nei pressi del traguardo, appunto. E dopo la confusione iniziale, le urla, le fughe, ci si accorse che centinaia di persone erano rimaste sul selciato. Se devo essere preciso, 264 persone ferite, molte in modo talmente grave da dover subire amputazione. I morti in quel caso furono 3. Gli assassini, i fratelli Tsarnaev, americani a tutti gli effetti, come erano francesi a tutti gli effetti gli attentatori a Parigi. E in questo caso gli americani avevano legami alla Cecenia islamica, erano diventati estremisti fanatici questi due fratelli, pronti all'attacco in casa, insospettabili come insospettabili erano i 3 francesi musulmani, estremisti islamici per essere precisi, perché non bisogna mai generalizzare, che hanno colpito ieri a Parigi. Proprio proprio in questi giorni la ferita di Boston si era riaperta. Pensate che due giorni fa c'è stata la notizia della scelta dei 12 giurati per il processo contro Dzhokhar Tsarnaev, 21 anni, unico imputato, visto che il fratello morì ucciso poco dopo l'attentato. Questo ragazzo rischia la pena di morte se ci sarà un giudizio unanime della giuria. Se non ci sarà, dovrà intervenire il giudice, potrebbe condannarlo al massimo all'ergastolo. But by the mid-90s, we had something really big happening in the Middle East, and that is the information revolution. Le reazioni cominciarono da Shibli Telhami, professore all'Università del Maryland. Tra l'altro, proprio oggi Telhami renderà noto uno studio condotto dalla sua università sulle reazioni dell'opinione pubblica americana nei confronti del terrorismo, dell'ISIS e della Siria. Ma le anticipazioni indicano un giudizio unanime: si ha a che fare con dei codardi terroristi che operano secondo regole medievali, che vogliono riportare indietro il mondo di secoli, che vogliono dividere, che vogliono negare l'illuminismo di cui noi tutti, di cui tutte le democrazie industriali siamo figli. Telhami ha ricordato le dichiarazioni del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon e di questo orrendo attentato a Parigi, e Ban Ki-moon dice: questo attacco orrendo vuole dividere, non dobbiamo cadere in questa trappola. E poi ricorda come gli attentatori parlavano francese, senza accento, difficilissimi, dunque da identificare, come dire, in anticipo. Well, they'll be looking to capitalize and of course to show that others are now going around to its own view of fighting terrorism. Salman Shaikh, un esperto di affari internazionali alla Brookings Institution di origine pakistana, torna anche lui sul tema della divisione. Dice: beh, questi assassini hanno massacrato dei giornalisti a Parigi nella speranza di dividerci, ma quel che so, quel che mi dice questo evento è che il mondo semmai si è unito contro di loro. Viva la Francia, e sono anche molto orgoglioso di dire che la mia moglie parigina, francese, cristiana, è per le strade di Parigi questa sera a protestare e sta parlando per lei e sta anche parlando per me, suo marito, britannico, pakistano e musulmano. I am a Muslim and Islam teaches me to be an activist. Islam teaches me to be concerned about human social justice. Infine H.A. Hellyer, un altro esperto di affari internazionali, che ha fatto un tweet ricordando una battuta del periodico francese di Charlie Hebdo che veniva attribuita a un presunto terrorista, militante, generico di ispirazione fondamentalista islamica. E la battuta era: il terrorista che parla dice, come osi dire che appartengo a un gruppo di culto in Siria e in Iraq e che siamo assassini e che ci sono degli assassini, sei un traditore e soltanto per questo ti ucciderò. Ecco, questa era l'ironia di Charlie Hebdo, una ironia pungente ma innocente. Per questo giornalisti, illustratori sono stati uccisi. Pensate che i terroristi li chiamavano per nome entrando nei locali del giornale, e questi poveretti hanno vissuto l'inferno che non credevano, che speravano non sarebbe mai arrivato. Ora la reazione qua in America, si conclude che non basta perseguire gli assassini, occorre definire nuove misure di sicurezza, perché dall'America all'Europa intera la sensazione è quella di una vulnerabilità davanti a un nemico fantasma che combatte una guerra asimmetrica che è difficile da identificare perché non ha istituzioni, quartieri generali, perché si mimetizza fra la gente comune, ed è questo il vero pericolo per tutti noi. Lo sapevamo, conoscevamo tutti il rischio, da oggi sappiamo che è possibile. L'America ha aumentato i livelli di guardia per la sicurezza, per la protezione antiterrorismo, ma ora è con l'Europa e con gli alleati che vuole andare avanti per distruggere l'ISIS che ha ispirato questi terroristi e questo attacco a Parigi. Se l'attacco, devo dire, ha portato una lezione, è quella che ha finalmente convinto coloro che avrebbero voluto ignorare la minaccia violenta, terribile dell'ISIS, come questa minaccia invece forse oggi vada confrontata, costi quello che costi, e in nome delle nostre rinunciabili libertà di espressione, simboleggiate di nuovo in modo ironico, caustico, certo a volte anche cattivello, ma libero, da Charlie Hebdo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, ho riflettuto molto su cosa proporvi oggi, e la canzone più bella, più simbolica per quello che è successo ieri a Parigi, è questa bellissima canzone di Bruce Springsteen, The Rising, che faceva parte dell'album composto e dedicato da questo straordinario cantante americano americano nel 2002 alle vittime dell'attacco dell'11 settembre. The Rising, Bruce Springsteen. New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.